Questo è un podcast di Rivista Militare. L'intelligenza artificiale riunisce i Beatles. Un software buca la barriera del tempo e permette di ultimare un brano scritto nel 1970 di Pierfrancesco Sampaolo. Che l'intelligenza artificiale si stia ormai diffondendo a macchia d'olio in ogni angolo delle nostre esistenze, dal mondo militare a quello civile, è un dato di fatto. Ma chi avrebbe pensato che questa potesse addirittura rompere la barriera del tempo e ultimare una canzone dei Beatles scritta quasi 60 anni fa dal compianto John Lennon? Ebbene sì, questa è la storia del brano Now and Then, scritto nel 1970 dallo storico frontman dei Fab Four, ucciso da un fan nel 1980 a New York. In quell'anno i Beatles si sciolsero, intraprendendo carriere soliste di grandissimo successo. Now and Then rimase così nel cassetto, niente di più che una registrazione con pianoforte e voce di Lennon. Nel 1995 però McCartney, Starr e Harrison decisero di tirarla fuori e riportarla in studio con l'intento di inserirla nell'album The Beatles Anthology. Registrarono alcune tracce, specie le chitarre di Harrison, ma purtroppo la tecnologia di allora non permise di risolvere dei problemi audio sulle parti originali. Infatti la voce e il piano di Lennon non erano separate e inoltre pare che l'audio del pianoforte desse dei seri problemi. Per questo motivo, i tre Beatles rimasti dovettero abbandonare il progetto con poche speranze di poter, magari un giorno, riprenderlo in mano. Pochi anni dopo, nel 2001, inoltre, George Harrison morì di cancro, lasciando l'eredità del progetto ai soli Ringo e Paul. Ma il destino, quando è il momento, bussa forte alla porta. Il regista Peter Jackson, nel 2021, decise di assemblare e pulire tutti i girati che ripresero i Beatles per 21 giorni nel 1969, agli Abbey Road Studios, mentre registravano il loro ultimo disco, Let It Be. Ne uscì fuori un'emozionante miniserie di 6 ore, Get Back, che termina con il loro ultimo concerto, quello sul tetto, passato alla storia come Rooftop Concert. Per montare tutto il girato e ottenere la migliore qualità audio possibile, Jackson con il suo staff elaborò un software basato su machine learning e intelligenza artificiale in grado di ottenere tutte le tracce audio separate, in altissima qualità, in modo da poterle assemblare di nuovo e migliorarle. Questa nuova tecnologia riaccese le velleità di Paul e Ringo, che insieme a Gilles Martin, figlio del produttore George, il cosiddetto quinto Beatles, decisero di rientrare in studio per completare Now and Then. Questa volta l'operazione riuscì. Paul registrò i cori e il basso, Ringo la batteria, mentre Martin si occupò degli arrangiamenti, specie con l'orchestra. Le chitarre di Harrison erano quelle del 95, la voce e il piano di Lennon, quelle del 70. Il risultato è una ballata senza tempo in pieno stile Beatles, melanconica, geniale e terribilmente accattivante, uscita il 2 novembre 2023. Ma gli artisti inglesi non si sono limitati alla produzione del brano e con la regia di Peter Jackson hanno realizzato un videoclip che di fatto racconta la storia di questa canzone, di questo viaggio nel tempo. Infatti, anche qui, grazie all'intelligenza artificiale, si incrociano immagini dei vecchi e degli attuali Beatles che suonano insieme, ora vestiti come i primi anni 60, ora con i costumi di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. È una carrellata davvero emozionante, dove gioventù e maturità degli stessi personaggi si incrociano, giocano, suonano insieme e si guardano negli occhi come se il tempo non contasse, come se non fosse mai passato. Chiaramente quest'operazione ha richiamato molte critiche, specie dai puristi del quartetto britannico, magari poco avvezzi a queste nuove diavolerie. Ma la verità, come ha anche dichiarato il figlio di Lennon, è che i Beatles erano proprio questo, dei pionieri che per primi si sono lanciati in sperimentazioni, accogliendo ogni innovazione come opportunità. Tutto ciò gli ha permesso di essere The Beatles e di riuscire addirittura a suonare ancora insieme oltre le barriere del tempo, oltre le barriere tra la vita e la morte. il podcast di Rivista Militare, vi dà appuntamento al prossimo episodio.